9. Ascolta e controlla. 1. Mi presti una matita, per favore? Certo, eccola. 2. Ci spedirai i libri per posta? No, ve li consegnerò io. 3. Regalerai ai bambini delle bici nuove? No, gliele hanno già regalate i nonni. 4. Avete già consegnato ai professori i test? No, glieli stiamo per consegnare. Li rileggiamo ancora una volta. 5. Puoi indicarmi dove si trova Piazza Mazzini? Certo, anzi, se vuole, signora, ce la accompagno. Anche io vado lì. 6. Mi spiace, signora, il bancomat è rotto. Non si deve preoccupare. Può prendere i libri, me li pagherà domani. 7. Non troviamo più le istruzioni. Sei sicuro che quando siamo usciti il negoziante ce le aveva consegnate? 8. Se chiedete all'autore un autografo, ve lo fa volentieri sulla prima pagina del suo nuovo romanzo.